Allora eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, qui sono le 15 in punto, 15 e 30 secondi, questa è Radio Onda Rossa e questa è la Conta, trasmissione contro il carcere, che va in onda come sapete mercoledì dalle 15 alle 16, un mercoledì sì e un mercoledì no. Anche se però la prossima volta, cioè il 2 agosto, prossimo mercoledì, saremo in onda perché poi appunto per salutare coloro che ci ascoltano alla delle vacanze di Ferragosto. Allora, dunque, oggi è 26 di luglio, sta finendo luglio appunto, e quindi il prossimo mercoledì siamo a inizio di agosto, il caldo non ha accennato a diminuire, appena appena poi riprende e quindi la situazione in carcere è ovviamente peggiora. E considerate che le carceri sono dei veri e propri forni d'estate e frigoriferi d'inverno e dunque. Allora, vediamo di dar subito come una sorta di sommario di quello che tratteremo oggi. C'è stata presentata un disegno di legge cosiddetto antiradicalizzazione, rivolto cosiddetta la radicalizzazione islamica, quella che dicono che porta poi a diventare terroristi islamici, perché dicono che è presente nelle carceri sta un centinaio di persone qui in Italia, in numeri molto ridotti rispetto al resto d'Europa e soprattutto Inghilterra, Francia eccetera, e che queste persone vivono un processo di radicalizzazione per dibattiti interni, per pubblicazioni provenienti dall'esterno, non lo so, e vorrebbero mettere il governo appunto con questo disegno di legge, che però ha avuto il via libera dalla Camera, poi dovrà passare al Senato, in realtà dice che per combattere l'estremismo di matrice jihadista. Di che cosa si basa? Lo vedremo, cioè fa abbastanza così sorridere perché si pone dei problemi veramente di carattere, cioè dice che il problema della radicalizzazione deriva da una serie di fattori, di elementi che sono propri del carcere. Il secondo aspetto è il fatto dell'incremento dei suicidi in quest'anno fino adesso sono 27 le persone in carcere suicidate, molto alto, considerate che siamo appena poco più in là della metà dell'anno, quindi rischia di superare di nuovo quota 50, speriamo di no, ma comunque la tendenza è questa per l'anno, e quindi sono tutti preoccupati, come mai, e vedremo anche qui le ragioni. Poi l'ultimo suicidio o comunque morte per abbandono, si potrebbe dire, avvenuto nel carcere di Ferrara, questa città omertosa, così la chiamo tutti, perché pensate un po', una persona semplicemente che aveva preso a calci la macchinetta del caffè, quelle macchinette che danno il caffè, era andata in una palestra, poi si era andato a prendere il caffè, la macchinetta del caffè non funzionava bene, cioè questo va a mettere la mano per prendere il bicchiere, c'è un getto d'acqua bollente, gli brucia la mano, si incalza e prende a calci la macchinetta, cosa che facciamo tutti quando capita le macchinette del caffè o anche quelle delle bibite, quando non funziona è normale prendere a calci la macchina da lì, quindi questo è il gravissimo reato di cui si è da lì appunto la proprietaria di questa palestra è andata a baccagliare con lui al terco, questa direttrice della palestra ha chiamato la polizia, anche lì al terco l'hanno portato in carcere, pensate come siamo messi, buttato in una cella sola, il giorno dopo si è suicidato. Vabbè, poi c'è questa storia gravissima che la riforma Fornero, che ricordate iniziata nel 2011 e che continua a delle scansioni, per cui ogni anno colpisce alcuni settori della popolazione, questa volta sta colpendo gli ultimi degli ultimi, cioè appunto i carcerati, vedremo in che misura, cose spaventose, e poi ancora torneremo sulla vicenda della tortura, che anche quella dimostra di una povertà intellettuale e anche morale e culturale del sistema così parlamentare italiano. قلبي اختارك وما صرت ادوار Allora, diciamo il primo argomento, questo fatto che il governo ha preparato un disegno di legge contro il jihadismo, così lo chiama, per misure per prevenire la radicalizzazione e l'estremismo violento di matrice jihadista. Questo è il titolo del disegno di legge che ha avuto già l'approvazione alla Camera. Ha risicato perché la destra non ha votato a favore, in quanto voleva che oltre, diciamo, combattere l'estremismo jihadista in carcere, il formarsi di radicalizzazioni, bisognava combattere anche altre radicalizzazioni. Addirittura qualcuno aveva proposto, pensate un po', che anche l'insurrezionalismo anarchico andasse combattuto, perché anche lì si notano, dicono loro, fenomeni di radicalizzazione. Vabbè, a parte quindi il davvero. Che cosa dice questa legge? In realtà hanno preso modello di altri paesi europei. Quello che hanno scoperto, pensate un po' tutti i governanti, gli studiosi, gli analisti, che nei paesi dove c'è un carcere, quasi in tutti i paesi c'è un carcere, carcere che c'hanno più o meno, si può stare un po' meno peggio o un po' meglio, ma sempre il carcere è quella roba lì, cioè quella situazione che non consente di vivere tranquillamente, che emargina, devasta, porta a disarticolazione della personalità e quindi manca proprio il concetto di integrazione nel carcere. Se c'è una cosa che combatte la possibilità dell'integrazione è proprio il carcere di chiunque c'è stato o anche ha fatto letture, ha letto lettere o ha ascoltato questa trasmissione, la cosa che diciamo di più è che nel carcere ciò che fa male non è tanto le condizioni, cioè l'ambiente brutto, vecchio, lurido, non pulito, diciamo, decadente, eccetera, con pochi servizi. Non è solo quello, anche quello aumenta la sofferenza. Quello che proprio fa male è un luogo dove c'è assenza di tutto, dove appunto le persone vengono completamente stravolte, sconnesse dalla propria realtà sociale. E quindi hanno scoperto che questa cosa fa male alle persone che stanno in carcere, e meno male che hanno scoperto. Però non è che dicono proviamo a togliere questa caratteristica specifica del carcere. Il carcere sulle persone detenute provoca questa dimensione, questa sofferenza, che è appunto devastazione, mancanza di personalità, rottura dell'identità, azzeramento di tutte le relazioni sociali e così via, no? Non quello, perché sennò dovrebbero mettere in discussione il carcere, ci mancherebbe altro, questi gli vengono poi i capelli dritti. No, allora bisogna fare in modo che, e che cosa si sono inventati? Sentite qua. Allora, intanto hanno costituito una regia nazionale, sarebbe il Centro Nazionale sulla Radicalizzazione. Centro Nazionale sulla Radicalizzazione, che in sigla è CRAD, gestito dal Dipartimento dell'Immigrazione insieme al Ministero degli Interni. Fungerà da cabina di regia nazionale per stilare un piano strategico che poi passerà all'approvazione del Consiglio dei Ministri. E l'operatività, cioè l'attività effettiva, sarà in mano al coordinamento regionale, perché quindi questo centro nazionale è articolato in coordinamenti regionali. Quindi questo altro insieme di strutture, come dire, insomma, inutili praticamente, perché vogliono affrontare, appunto, combattere queste dinamiche, appunto, che il carcere fa male, non abolendo il carcere o diminuendone la sua presenza, la sua invasività, ma cercando quindi che cosa vogliono fare. Allora, intanto mandano a scuola alcuni personale di polizia penitenziaria, cioè secondini, perché devono imparare a trattare le persone di altra religione, di altra cultura. Poi manderanno a scuola anche i magistrati, perché anche loro devono imparare a come si trattano persone di altra cultura e di altra religione provenienti da altri luoghi. E quindi e poi lo sviluppo delle scuole nelle carceri, tutte cose che dovrebbero essere l'essenza, visto che una persona la sradichi dal proprio ambiente, la porti in un luogo dove c'è il nulla, è chiaro che dovresti almeno per tutti e tutte coloro che vengono buttati in carcere fare in modo di riempire quel vuoto assoluto che appunto è il carcere con attività di questo tipo qua, scuola, dibattiti, discussioni, studi eccetera, e lo vogliono fare adesso soltanto per combattere il fenomeno della radicalizzazione jihadista, così dicono. Sarà ovviamente il solito buco nell'acqua. Il problema è che, per quanto riguarda l'Italia, i numeri sono molto contenuti. Per esempio, su 56.440 detenuti attualmente presenti nelle carceri italiane, un numero che sta crescendo, abbiamo denunciato le volte precedenti, si era arrivati a 51-52.000, no, con i provvedimenti di svuota carceri, che però, come abbiamo visto, non funzionano, cioè non basta fare una legge. Le leggi svuota carceri sono state fatte sotto la pressione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che aveva sanzionato lo Stato italiano perché teneva le carceri in uno stato degradato, inaccettabile, oltre queste leggi hanno funzionato i primi mesi, no? Sotto la pressione, appunto, della comunità internazionale, che criticava l'Italia per come teneva le carceri, che fanno schifo dappertutto, però l'Italia si era guadagnata un punto in più, cioè da noi facevano particolarmente schifo il sovraffollamento, i servizi che mancavano eccetera. E quindi queste leggi svuota carceri i primi mesi hanno funzionato, portando la popolazione carcerata dai 69.000 che erano arrivati ai 51-52.000. Poi, finita l'emergenza, perché in Italia la parola che funziona più è emergenza, come avete capito, no? Fa un po' di caldo, emergenza siccità, comincia a piovere, emergenza acqua, così è successo nell'arco di poche ore, no? Per esempio nelle Marche si è passati dall'emergenza siccità, a un certo punto è venuta l'acqua, pure la grandine, e si sono allagati tombi, e quindi emergenza siccità fino allora a mezzogiorno, e mezza l'emergenza era diventata che si erano otturati i tombini, i fiumi straripavano e così via. Vabbè, il problema, appunto, dicevo, l'Italia comunque è molto, diciamo, un numero molto basso, sono 345 le persone sotto osservazione per presunti legami col jihadismo, 345, quindi 0,6%, e 153, quindi meno della metà, quelli che sono classificati ad alto rischio di radicalizzazione. Questi numeri, l'altro numero, quello numero più significativo, quelli che sono in procinto di espulsione, con tutto l'incartamento che è lunghissimo, perché ogni paese ha un protocollo particolare per fare l'espulsione, insomma, in Italia sono 110 le persone che i cosiddetti foreign fighter, no, combattenti stranieri, che vengono fermati perché appunto qualche così come dire, individuati come persone che vorrebbero andare a combattere in giro, e sono 110 e considerate che in Francia sono 1500, in Germania 1000 e così via, quindi numeri molto bassi. Insomma, quello che vorrebbero fare, quindi, mettere in piedi una serie di attività nelle carceri di carattere culturale, scolastico, dibattiti, cose eccetera, per prevenire, per fare in modo che queste persone non si sentano abbandonate, diciamo rifiutate, e quindi non accettino quei discorsi di radicalizzazione che servono venire. Cioè, praticamente hanno scoperto che il carcere crea le condizioni migliori per creare appunto l'humus, no? Per la radicalizzazione. Questo è quello che fanno in realtà. Considerate che molte di queste persone che stanno in carcere cosiddette a rischio di radicalizzazione sono state messe in carcere non perché hanno fatto dei reati gravissimi, addirittura alcuni nemmeno nessun reato hanno fatto, cioè, c'è soltanto il sospetto su di loro che leggono, dicono cose che possono far pensare a persone che sono in via di radicalizzazione. Alcune persone che hanno fatto semplicemente un furto, che per altri versi normalmente oggi il furto semplice non è punito con la galera, se è il primo reato, no? Ma con misure alternative, se questa persona, pur avendo fatto un solo furto, viene c'è una relazione fatta da qualche servizio segreto, qualche cosa analoga, che frequenta ambienti radicali, jihadisti, oppure fa letture di questo tipo, oppure che ne so, fa qualche discorso strano, è chiaro che viene messo in carcere. Quindi sono persone che nemmeno dovrebbero stare in carcere, però questa è la realtà. Yo pensando en ti, toda la noche, yo pensando en ti, pensando en ti, que tanto te quería. غيرت ما يحلالي Allora, veniamo al secondo argomento, quello dei suicidi. Allora, è un dato costante, i suicidi in carcere, che ricordiamo sono circa 20 volte superiori a quelli esterni, no? Il suicidio c'è anche fuori, è un dramma dell'essere umano quando arriva a situazioni di depressione, di devastazione anch'esso, e o anch'essa, secondo appunto chi si suicida. Però vista una quantità di popolazione, cioè su 100.000 persone, i suicidi in carcere in percentuale sono 20 volte superiori di quelli fuori. Questo vuol dire che quindi il carcere alimenta questo fatto, no? Questo darsi la morte. E allora, poiché appunto è andato, oscilla sempre tra, negli ultimi anni, da 40 a 50 questo numero di suicidi in carcere, suicidi accertati, poi ci sono sempre a fianco di questi suicidi accertati, che appunto vanno dai 40 a 45, 50, a volte superano anche 50, nel passato hanno raggiunto anche 60 suicidi l'anno, poi vi sono 120, 130, 150 morti in carcere. E queste morti in carcere, fenomenologia è enorme, è variegata, è tantissima, a volte non si riesce a stabilire se è suicidio oppure morte per mancanza di cura, mancanza d'assistenza, una persona che non è stata ricoverata al pronto soccorso perché una persona detenuta, perché segnalava dei disturbi gravi. Ecco, i motivi sono tanti dei morti in carcere, cioè quei 120, 30, 150 morti in carcere in un anno. Molti di questi oscillano in casi molto diversi, e mentre invece i suicidi veri e propri, quelli appunto che sono quei 40-50 l'anno, sono suicidi accertati dall'autorità del carcere, quindi abbastanza. Però appunto probabilmente i numeri, queste due cifre, diciamo 50 l'anno i suicidi e 130 morti in carcere, hanno dei punti di contatto, diciamo. Vabbè, comunque, perché in carcere, considerate, tutti i numeri ci vengono trasmessi dall'autorità carceraria, non è possibile alla società civile entrare in carcere. C'è solo un personaggio, una struttura, un'istituzione che ha, dopo numerose lotte di durate decenni, ha questa possibilità di mettere il naso nelle questioni carcerarie, ed è il Garante Nazionale dei Detenuti. Hanno fatto, dopo appunto tante lotte, un ufficio per la tutela dei diritti delle persone detenute. Questo ufficio non ha tanti poteri, anzi per quasi niente, addirittura in molti carceri non lo fanno nemmeno entrare in carcere. Comunque si è formalizzata questa, dopo tanti appunto anni, decenni e decenni di lotte, si è costituita questo ufficio per la tutela dei diritti delle persone detenute. A capo di questo ufficio c'è stato messo Mauro Palma. Mauro Palma è una persona che da sempre si occupa dei diritti lesi, cioè delle inadempienze nei confronti di quello che spetta anche alla persona detenuta. Quindi è una persona che ha una grossa esperienza, una grossa capacità. E lui ha segnalato questa cosa, che dall'inizio dell'anno alla metà di luglio le persone suicidate sono 27, quindi poco più di metà dell'anno è il 30 giugno, questi numeri sono del 15 luglio, quindi 27 persone, quindi si rischia di superare i 50 anche quest'anno. Fatto molto grave, perché significa una rimpennata dei suicidi, che invece si erano attestati sui 45 negli anni precedenti, insomma. E allora, inoltre, poiché hanno oltre questo numero di suicidi, Mauro Palma ha accertato una continua e crescente violazione di quelle che sono quei minimi, diciamo, necessità, che pure sono concessi dalla legge alle persone detenute. Quindi in ogni carcere ci stanno violazioni di tutti i tipi, pesantissime, eccetera eccetera. A quel punto ha deciso di farsi per tutti i procedimenti. Quando una persona si suicida in carcere si apre un procedimento penale, c'è un morto, quindi la procura apre un procedimento penale contro ignoti per vedere se c'è l'induzione al suicidio, ci sono mancata assistenza, tanti tanti fattori. lavori. E lui ha deciso di diventare parte civile, cioè di partecipare a queste inchieste come parte civile, perché essendo tutore delle persone detenute, della violazione dei diritti delle persone detenute, dice: voglio partecipare al processo. E quindi ha fatto questa segnalazione. Inoltre, quello che ha fatto appunto nel lavoro, che da poco questo istituto è stato formalizzato, no? Questo ufficio del Garante Nazionale dei Detenuti, bene, ha fatto varie ispezioni nelle carceri, laddove l'hanno fatto entrare, o comunque baccagliando un po', facendo cose, comunque è riuscito a ottenere, interrogando detenuti che escono in semi libertà o che sono usciti in fine pena, insomma, è riuscito a capire la realtà delle carceri italiane, che è devastante. Non solo è sempre stata così, no? Ma sta peggiorando dal punto di vista di quelli che sono gli elementi fondamentali della sofferenza in carcere, che è appunto quella che chiamiamo devastazione della identità umana di una persona buttata in carcere. E quindi dice appunto, se vogliamo, come tutti dicono, perché si fanno convegni, dibattiti, si scrivono libri, convegni anche altisonanti con persone importanti che costano pure un sacco di soldi e poi non producono niente, se ne fanno per dire: bisogna fermare questa vergogna, no? È una vergogna che gli stati cosiddetti moderni e civili, come l'Italia, ma anche la Francia, ma anche l'Inghilterra è altissimo anche lì il numero di suicidi, i paesi più sono civili e più ci hanno i suicidi in carcere, pensate un po'. Piccola parentesi, permettetemelo, questo è l'impennata dei suicidi, è avvenuta a partire dagli anni 90 ad oggi, quando appunto si è superato i 50-60 suicidi l'anno. Negli anni in cui c'era, probabilmente le carceri erano sicuramente peggiori, ancora più rotte, i passeggi, le docce, non funzionava niente, però c'era all'interno delle carceri un livello di mobilitazione permanente. In molte carceri si erano formati i collettivi dei detenuti, collegati tra di loro grazie all'appoggio di persone esterne, collegati molto a realtà esterne sul territorio, territoriali, e facevano appunto lotte, manifestazioni, proteste, sempre con legame interno-esterno. Questa mobilitazione del mondo carcerario aveva fatto scendere a livelli bassissimi i suicidi. Pensate che negli anni 70-80, gli anni delle rivolte in carcere, delle proteste, delle lotte, i suicidi non superavano i 10 l'anno, 10 l'anno, 7, 8, 9. Adesso torniamo sopra i 50-60. Che vuol dire questo? Vuol dire che appunto, e come giustamente dice anche Mauro Palma, il problema non è solo che il passeggio fa schifo, la doccia non funziona, cioè le condizioni, il muro è scrostato, eccetera. Questo conta, ma conta relativamente. La persona non si suicida perché il cesso è sporco, oppure non si può fare la doccia. Casomai si incazza e bestemmia, ma non si suicida. Quando si arriva al punto di sopprimere la propria esistenza è perché i punti centrali che permettono di continuare a vivere, ossia la voglia di vivere, le relazioni sociali, umane, la prospettiva, il vedere un futuro davanti a sé, l'identità forte e personale, individuale e collettiva, hanno un punto di forza, e quello è stato appunto assicurato dalle mobilitazioni, l'organizzazione dei detenuti, eccetera. Quindi punta su questi dati, dice qui: questo sistema carcerario conduce alla depressione, che è l'anticamera del suicidio, niente di più chiaro. Quindi lui mette in discussione un po' il carcere stesso. E se vedete adesso, con quello che abbiamo letto un attimo fa, la radicalizzazione, il jihadismo, cioè i foreign fighter, le persone che dentro al carcere, che ci vanno anche per piccole cose, per caso vanno in carcere, e in carcere poi vengono attratte da discorsi sulla radicalizzazione, no? Su questa guerra totale, religiosa, eccetera. Perché? Perché anche lì vedevamo quella legge, no, contro la radicalizzazione, veniva fatta all'insegna del fatto che queste persone si sentono estraniate, devastate, espulse dal consesso, non integrate, quindi, e questo fatto porta, nel discorso prima, alla radicalizzazione, nel discorso adesso al suicidio. Come vedete, quindi, l'uno e l'altro caso, no, mettono al centro l'essenza stessa del carcere, che, come ho detto, io capisco tutti quelli che si occupano, sono tante, tutte le brave persone di questo mondo, che si occupano che i detenuti abbiano le loro condizioni di vita decenti, per carità, e serve anche quello, un cibo buono, decente, la doccia che funziona, il passeggio un po' più largo, con un po' d'ombra, perché quando ci sono giornate così in queste scatole di cemento, immaginate, diventano forni, e insomma, che abbiano una biblioteca, la sala di lettura, eccetera. Queste cose è giusto battersi per, ma non è questa l'essenza del carcere che devasta le persone. Quello che porta alla depressione, che quindi può far sfociare poi o nella radicalizzazione o nel suicidio, beh, sono altre, insomma, e sono l'essenza stessa del carcere. Ora è chiaro che Mauro Palma poiché è un'istituzione lì in un organismo istituzionale che è il centro di tutela delle persone detenute, è chiaro che non può dire aboliamo il carcere, però viene da sé leggendo quello che dice, dice appunto manca la cultura in carcere. Che cos'è la cultura in carcere? La cultura del rispetto della persona detenuta. La persona detenuta è una persona, non è un nulla, non è un numero. Invece in realtà è un numero, un nulla, cioè viene sempre l'ultimo dell'ultimo dell'ultimo. Quello che porta alla depressione, che cosa porta alla depressione? Non dice questa cosa, però lascia intendere, è inutile interrogare fini psicologi per capire come mai una persona viene indotta al suicidio. Ci stanno talmente tanti casi, ormai sono, vediamo dal 2000 ad oggi, sono tantissimi casi di persone suicidate, e basterebbe analizzare la storia di ciascuno di quelli e viene fuori il motivo del perché la persona si suicida in carcere, perché appunto è spinto alla depressione, e la sensazione quando vieni buttato in carcere, la sensazione è che sei diventato un nulla, che nessuno si occupa di te, che sei un numero, che possono giocare come vogliono, che non hai più identità, nessuno rispetta il tuo essere una persona, ma vieni trattato come una cosa buttata in un angolo. Difatti i dati del suicidio sono esplicativi, chiarissimi, soltanto i cretini non vogliono capirlo. Non è per esempio la lunghezza della carcerazione che provoca il suicidio, è il primo impatto. La gran parte dei suicidi avvengono i primi giorni, il primo mese e i primi 3 mesi. Questa è la gran parte dei suicidi, avvengono in questi, quando la persona non è stata ancora condannata, perché in genere, sapete, si va in carcere prima, si va in carcere e poi cominciano le lungaggini processuali, quindi con molte persone che sono state buttate in carcere e poi si sono suicidate, sarebbero state assolte perché erano state buttate in carcere, come questo ragazzo di Ferrara, che poi vedremo accorrendo appunto di questo discorso sul suicidio, che aveva dato un calcio alla macchinetta per il caffè perché si era scottato, funzionava male, quindi si era scottato una mano, incazzato, dato un calcio, poi ha litigato con la direttrice di questa palestra dove c'era la macchinetta, questa ha chiamato la polizia, ha litigato pure con la polizia perché ormai si era alterato, e per questa cosa l'hanno portato in carcere. Ovviamente non poteva aver messo in conto questa persona di finire di essere tolta dalla realtà, anche se aveva preso a calci una macchinetta, anche se aveva litigato con la direttrice o con la guardia, perché voleva sfogarsi del fatto che si era scottato per prendere un caffè, quindi quella rabbia lì doveva manifestarsi, e non poteva permettere che delle forze dell'ordine mettessero in galera, cioè annullassero questa persona, e questa si è sentita annullata, non aveva nessuna possibilità di capire il perché era stato buttato in una cella di un carcere, e quindi si è suicidato, come vedete. Ma questi sono tanti casi, ci stanno poi le lettere delle persone suicidate, molte persone che si suicidano lasciano una lettera le ore prima, spesso ai propri cari, no? Parenti, familiari, eccetera, o anche amici, in cui mai dicono ci suicidiamo perché le docce non funzionano, perché i passeggi sono troppo piccoli o perché siamo sovraffollati. Non è quella la ragione, che non significa che non bisogna risolvere quei problemi, io lo dico, quei problemi fanno schifo, dimostrano la dabbenaggine, la miseria, la mafiosità di questo Stato italiano di merda, però non sono quelli l'elemento centrale che purtroppo di cui sono responsabili non solo i cattivi governanti, i cattivi direttori che tengono il carcere in quelle condizioni, ma anche le brave persone che, pur dicendo che i carcerati dovrebbero avere i loro diritti, però mantengono la funzione. Però il carcere devono esistere, deve essere fatto bene. Sono tanti, guarda, sono tanti in questo paese triste. Ed è cambiato totalmente. Mai anni fa, decenni fa, si diceva sì, il carcere deve esistere, però deve essere un carcere vivibile, fatto bene, con l'acqua calda, gli spazi, cioè, non si è mai detto questa cosa qui. Anzi, una volta le persone intelligenti criticavano il carcere con le tendine rosa, per dire: non facciamo in modo che le lotte partoriscano un carcere con le tendine rosa, vuol dire un carcere abbellito, ma che rimanga carcere. Il problema è che dobbiamo battere il concetto del carcere, perché anche con le tendine rosa, con tutti gli ammennicoli vari, il carcere ti toglie gli elementi essenziali che ti permettono di vivere, ossia la voglia di vivere, la prospettiva in un futuro, le relazioni umane, affettive, sentimentali, amicali, che permettono di essere te stesso e soprattutto avere una dimensione, un'identità forte che gli altri rispettano. Questo è l'elemento città. Azzerate queste cose, è chiaro, non vale più la pena di vivere, quindi porta al suicidio. E quindi anche Mauro Palma dice sostanzialmente che questi sono gli elementi centrali, però poi portare delle piccole, delle modifiche, chiedere delle modifiche al carcere perché risolva questi problemi è difficile, perché c'è una riforma da fare al carcere, ma è una sola, quella di abolire le galere. Di sanzioni se ne potrebbero inventare migliaia, e invece rimane quella del carcere, che diritti o non diritti, sempre devastazione produce e quindi sempre ti induce al suicidio. E allora, però comunque porta delle cose, di portare un altro rapporto tra sistema carcerario e popolazione detenuta. Lui può proporre queste cose: intanto aprire il carcere alla società, fare entrare la gente in carcere in modo che si stabilisca quel rapporto che farà forza a chi sta dentro. E insomma, questi elementi qui di forza. Ora, il problema poi, a parte quello che ha detto Mauro Palma, ha fatto il suo lavoro, però poi spetta a tutti noi. Considerate che la responsabilità di questi morti in carcere è di tutti noi, anche se appunto diciamo no, ma devono essere trattati bene, non è quello. Anche trattati bene, le persone si suicideranno in carcere, perché non si può accettare che da un momento all'altro. Voi pensate che cos'è il momento dell'arresto? Il momento dell'arresto è un momento nella vita di una persona che succede questo fatto: una persona sta nel suo ambiente lavorativo, affettivo, amicale, fa le sue cose, no, belle o brutte che siano, quello è il suo ambiente, quella è la sua vita. Improvvisamente arrivano degli uomini in divisa, ti prendono, ti portano via da quell'ambiente che viene azzerato, cancellato, e ti buttano in un posto dove regna il nulla. Ecco, soprattutto il primo arresto significa isolamento, quindi tu da lì non vieni buttato in mezzo ad altri 100 carcerati dove perlomeno qualcuno ti dice dai che si continua a vivere, no, vieni buttato nel nulla, cioè in una cella dove non c'è nessuno, ci sei tu con le tue angosce, e chiaramente da lì a indurre al suicidio, voglio dire, è solo un cretino, non lo capisce. Ed è quello che è avvenuto poi, appunto, sì, questo fatto. Purtroppo il punto, la conclusione per ora di questi 27, cioè il 27esimo di queste persone suicidate, è questo ragazzo a Ferrara. Ferrara è una delle più belle città del mondo, va detto, però è una delle città più tristi e omertose del mondo. Purtroppo, come è successo, non dovranno analizzarlo coloro che vivono in quella città, perché è una delle città più belle e fatte a misura di umani, è retrocessa a livello di città omertosa, mafiosa, squallida. Non perché ci sia violenza, perché la violenza è il silenzio, il non ascoltare, il non occupare, in chiude, stare tutti barricati dentro casa e fregarsene di una persona che viene appunto come i casi sono tanti avvenuti in questa città tristissima, e dove appunto non si reagisce di fronte al fatto che una persona, un uomo di una trentina d'anni, che per un momento di rabbia, perché si era scottato per dalla macchinetta che doveva dargli il caffè e l'ha presa a calci il distributore di bevande, e a quel punto un alterco con la polizia lo porta in carcere, non poteva accettare una cosa così, non si può accettare una cosa così. Il suo rifiuto di accettarlo è stato il suicidio. لقيت مزاري قلي قطولي وتمرمت كاين اللي يبكي على زهره كاين اللي حي يبكي وقبره كاين اللي شاب في صاره كرهنا من الحياة كاين اللي يبكي على زهره كاين اللي حي يبكي وقبره كاين اللي شاب في صاره تلاقى الحق مع الباطل ماشك في الخطوة الباطل خلاص لقى الحل باش يحكم غدوة بين ركعيان قالوا حفيت من المشياء وزادلو باري لي نعملو كي سرج الحصان كاين اللي يبكي على زهرو حيبكي في قبره كاين اللي شاف صاروا تلفونا لقات كاين اللي يبكي على زهره كاين اللي حيبكي في قبره كاين اللي شاف صاروا كرهنا مهالحياة كاين اللي يبكي على زهره كاين اللي حيبكي في قبره كاين اللي شاف صاروا تلفونا لوقات ياك الحق ما شك في قواله وطلع فوق ظهره كامل الناس اصبح حاله وبداو يهدرو كاين اللي يبكي على زهره كاين اللي حيبكي قبره كاين اللي شاف صاروا كرهنا مهاد الحياة كاين اللي يبكي على زهره كاين اللي حيبكي قبره كاين اللي شاف صاروا تلفونا لوقا. E allora veniamo all'altro punto ancora, intanto sono fatte le 15:44. Dunque, tutti e tutte conoscete la riforma Fornero, la ministra Fornero sotto il governo Monti nel 2011 col decreto Salva Italia ma ammazza italiani e italiane, questo andava messo a corredo di quel titolo, va bene, perché dovevano pagare il famoso debito, gli interessi sui prestiti, gli interessi, non dei soldi non restituiti, gli interessi maturati che delle banche che hanno prestato i soldi, vabbè, a parte questo il discorso sul debito comunque. Beh, allora, per diminuire la spesa pubblica ha detto tagliamo le pensioni, tutte le pensioni. Quello che ha fatto la riforma della Fornero prevedeva, era fatta nel 2011 appunto, no? E prevede una serie di passaggi fino al 2018, cioè quindi fino all'anno prossimo. Ha colpito prima la gran parte dei lavoratori e lavoratrici che ancora ne pagano perché no, aumento dell'età per andare in pensione, diminuito, tutto un disastro, c'è gente ancora che si strappa i capelli perché stava per andare in pensione, mancava qualche mese, già aveva preparato, diciamo, i festeggiamenti con i compagni di lavoro e invece è venuto altri 5 anni, vabbè, insomma. Questo lo sappiamo, non c'è bisogno di dirlo, ne parlano tutti e va bene, va male, ma insomma è così, non, purtroppo non abbiamo avuto la forza di bloccarlo, di respingerlo questo decreto massacra alla popolazione lavoratrice. Bene, in uno di questi passaggi dice appunto dal 2011 al 2018 ha delle scansioni, dei momenti, quest'anno nel 2017 è partita l'attacco a chi? Agli ultimi degli ultimi, ossia alle persone carcerate. pensate, pure quelli, e certo, attacca tu, non guarda in faccia nessuno. Che cosa è successo? Che appunto questo passaggio dice che le persone detenute o anche condannate che hanno espiato la pena sotto particolari condannate per particolari articoli del codice penale, alcuni di loro avevano un trattamento previdenziale e oppure considerati invalidi civili, perché tutti sappiamo che in carcere si prendono un sacco di menomazioni, di malattie, di cose, e quindi molte persone avevano ottenuto, data l'individuazione della patologia che aveva contratta in carcere e che provocava invalidità, un certo grado di invalidità, con quel grado di invalidità prendevano piccole pensioni, tutto, parliamo di pensioni misere, di invalidità. Altri avevano, per il lavoro svolto in carcere, quello di scopino, portavitti, i cosiddetti lavori intramurari, no? Oppure appunto in carcere, che vengono pagati molto meno di quanto prevedono i contratti collettivi, eppure vabbè, per farlo quello, molti detenuti e detenute per avere due soldi. Quei trattamenti poi, diciamo, il carcere non paga anche le varie indennità necessarie, quindi anche con lavoro di quel tipo si realizza la pensione, piccolissime pensioni. Altri hanno l'indennità di disoccupazione, altri hanno le pensioni sociali, quella pensione che viene data a un certo sopraggiunta a una certa età, minimissima, oppure appunto in piccole invalidità che non permettono di lavorare. Tutta questa cosa si era conquistato, ma erano dovute a leggi precedenti e verifiche dello stato di salute oppure dello stato lavorativo di queste persone detenute. Adesso la riforma Fornero, appunto questo gradino della riforma Fornero scattato adesso, dice che dovrebbe essere tutto azzerato, riconsiderando le varie cose, perché dicono quei invalidi non sono invalidi, poi perché quelle attività lavorative non sono vere, erano finte, vabbè, non si capisce perché, e spesso erano appunto attività lavorative svolte sotto la direzione del carcere, no? Che quindi praticamente qui, e quando lavori in carcere per fare le attività appunto cosiddette intramurali, no? Chiaramente la busta paga ti viene dal Ministero di giustizia, non è che ti viene da voi, quindi però comunque e quindi sono state, diciamo, azzerate tutte, al punto che vanno rivedendo una per una, intanto azzerate, quindi hanno perso tutti quei quattro soldi, ma parliamo di cose da 200-300 euro, massimo 400 euro, quindi miseria che non permetteva di campare, ma almeno di sopravvivere a stento, e tutto questo è azzerato e le questioni vanno riconsiderate una a una. Eppure tutti sanno, perlomeno loro, la Fornero non so se lo sapeva, però comunque avrebbe dovuto saperlo perché era ministra della Repubblica Italiana, che l'articolo 38 della Costituzione prevede che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. Questo lo dice la Costituzione, capisco che oggi non è più di moda, però quello c'è scritto. I lavoratori hanno, ancora l'articolo 38 si dice, i lavoratori hanno diritto che siano prevenuti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, di malattia, di invalidità o di vecchiaia, oppure di disoccupazione involontaria. E quindi con questa legge, con questo articolo della Costituzione, poi diventati articolazione di legge, avevano preso quei piccoli contributi che adesso la Fornero, l'andamento Fornero non c'è più al Ministero, però quella legge lì permette di azzerare. È colpiscono gli ultimi degli ultimi. Per tirare fuori qualche soldo, perché appunto se parliamo di pensioni di 200-300 euro, in qualche caso arriva a 400 euro, ma rarissimo, quindi di miserie veramente, previste da tutte le leggi, non è che erano state, non parliamo delle pensioni di come era la liquidazione che ho letto ieri di quello che ha preso 48 milioni, di euro. Vabbè, come vedete è così, insomma, no? Non c'è bisogno di scrivere documenti anche un po' complicati, di difficile lettura, per sostenere che questo sistema, questo governo che ne assicura la continuità, questo meccanismo di produzione e di distribuzione è contro i poveri per impoverirli ancora di più e a favore dei ricchi per arricchirli di più. Questo non è un modo di dire, è la realtà scientifica. Chi la nega è un povero demente, perché è così, intanto perché non lo diciamo noi, ma lo dicono i dati dell'OCSE, che è un organismo internazionale, che dice che in Italia si è aumentata la forbice retributiva, cioè i redditi alti sono cresciuti, i redditi bassi sono decresciuti. Quindi la forbice tra il più, diciamo, usando un termine popolare, tra i più poveri e i più ricchi si è allargata di molto, addirittura raddoppiata, cioè quella distanza che per esempio prima era, che ne so, 50 volte, 60 volte, adesso è diventata 120 volte. Quindi tra più che facciamo, questo per capire. E se poi qualcuno dice ma no, questa è la più bella società del mondo, vabbè, probabilmente ha dei problemi di carattere, non lo so, però insomma, mentale. Vabbè, questo è il dato. Ora non succede niente, non succede niente. Ora che è chiaro, c'è un vulnus in questa riforma Fornero, è quella che lo dice la Costituzione, lo dicono le leggi, ma lo dicono anche e soprattutto i principi del diritto, che una legge non può intervenire retroattivamente, cioè i diritti maturati vanno salvaguardati. Se per esempio uno ha maturato uno di questi emolumenti, no? Che so, cosa di la pensione di invalidità o di vecchiaia eccetera, o quella sociale, prima del 2011, cioè della riforma Fornero, quella scusate, quella quella, diciamo, quel diritto, quella conquista deve rimanere, perché la legge del 2011 non può intervenire retroattivamente. Questo è un principio generale del diritto, è scritto anche sulla Costituzione, è scritto anche su molte leggi. Però come si può dichiarare incostituzionale questa legge se qualcuno di queste persone a cui viene tolto quei quattro soldi ricorre alla Corte di Cassazione, alla Corte Costituzionale, la consulta, perché lei può dire che quell'intervento retroattivo è incostituzionale, ma possono queste persone con quei quattro soldi che gli hanno pure tolto intervenire, fare un ricorso alla Corte Costituzionale? Sapete quanto costa? Quindi non rimarrà così, è una cosa illegale fatta dalla ma la Fornero ha fatto quasi tutto illegale, però come dire, qualcuno che per quei poche persone che sono riusciti a fare la vertenza costituzionale l'hanno vinta, però con i costi. Quindi queste persone non faranno niente, a meno che qui c'è la possibilità, a meno che singolarmente non potranno fare niente, a meno che invece collettivamente per interventi esterni si associano queste persone. Ovviamente ci vuole un intervento esterno di qualcuno con degli avvocati bravi, e associando il costo diventerebbe molto minore e potrebbero fare una vertenza costituzionale e la potrebbero anche vincere, ma da soli ovviamente non la faranno. جزت كناية and now here we are, it's like talking to the stars, and now here we are, it's like talking to the stars. prisonnière de ma mémoire. Passe le temps, passe le temps, passe le temps, passe le temps. Je me souviens de mon enfance, des fées, des ogres et des mages, tous ces rêves et ces croyances éphémères comme les nuages. Fermer la porte de l'innocence, se poser les vraies questions, donner de nouvelles chances, regarder vers l'horizon. Passe le temps, passe le temps, passe le temps, passe le temps, passe le temps, passe le temps. Allora, 15:58 e 23 secondi, quindi stiamo in conclusione. Il quarto argomento era quello della legge sulla tortura, una legge bruttissima. Non a caso colui che l'ha presentata, il senatore Manconi, che era tutt'altra, era quella che rispecchiava diciamo la declaratoria fatta dall'ONU, che più o meno tutti i paesi, almeno alcuni, l'hanno ripresa, che poi riguarda la convenzione del 1900, firmata dal 1984, firmata dall'Italia. Poi nei passaggi tra Camera e Senato hanno peggiorato a quel punto che infatti gran parte degli avvocati, diciamo, e giuristi dicono: se ci fosse stata questa legge durante i fatti di Genova, nessuna guardia torturatore o massacratore poteva essere condannata, perché questa legge in realtà è fatta per non condannare gli agenti in funzione di ordine pubblico. Questa è la realtà, quindi ancora una volta una vergogna, ma ne parleremo meglio la prossima volta, perché siamo in chiusura di trasmissione. Noi auguriamo appunto di resistere al caldo di questi giorni, ci sentiamo mercoledì prossimo, il 2 agosto, perché poi inizieranno appunto le vacanze agostane, o perlomeno di Ferragosto. Quindi ci vediamo mercoledì prossimo, mercoledì 2 agosto, sempre alle 15, sempre alle frequenze di Radio Onda Rossa. Buona libertà a tutti e tutte. Di qui sarò più bravo quando uscirò di qui.